San Pasquale Bailon nasce a Torre Hermosa in Spagna il giorno di Pentecoste e il 16 maggio 1540 era il quinto figlio di Martino Bailon che, rimasto vedovo, si era risposato con Isabel Jubera. Questa famiglia, cari amici, sebbene umile, povera, era animata da una fede profonda e da un desiderio sincero di seguire Gesù. Metteva al primo posto la Santa Messa, in particolare la devozione alla Santa Eucaristia. Tutto questo si traduceva, quando era possibile, proprio nell'adorazione al Santissimo Sacramento. E in famiglia non mancava mai la preghiera. Tra queste spiccava in modo particolare la recita fatta tutti insieme del Santo Rosario, anche questo grande amore verso la Vergine Maria. Riguardo poi all'Eucaristia, sappiamo che allora, siamo nel 1500, si poteva ricevere solo alcune volte l'anno, ma questo spesso veniva proprio sopperito con l'adorazione al Santissimo Sacramento. E proprio, possiamo dire, questo meraviglioso trasporto d'amore era vissuto verso Gesù ogni giorno da questa famiglia, soprattutto dalla mamma, la mamma di San Pasquale che era Isabel, che portava con sé in chiesa, oltre a Pasquale che era piccolino, anche gli altri figli, ancora bambini. Qui era veramente e spiccava quello che in una famiglia traspare, cioè una fede luminosa, una carità veramente grande. E qui era cresciuto il nostro piccolo santo. Un giorno però successe qualcosa di molto particolare. Aveva pochi anni quando Pasquale, eludendo l'attenzione della mamma, scomparve. Insomma, non si trovava più. Isabel, la mamma, angosciatissima, chiese ai vicini, girò tutte le abitazioni del paese. Non trovandolo, cominciò a pensare male. Alla fine, disperata, entrò in chiesa e in ginocchio chiese al Signore di fargli trovare il piccolo. Qui, con grande stupore, vide il bimbo inginocchiato davanti al tabernacolo che fissava immobile la Santa Eucaristia. Isabel, con il cuore in gola, abbracciò questo suo bimbo, perdonandolo. Ma con il passare del tempo questa cosa diventò sempre più frequente, tanto che lei non si preoccupava più. Cioè, quando non lo vedeva più in giro, sapeva già dove andare a cercarlo, quindi ai piedi di Gesù. Dicevamo che nella casa dei Bailon, sia Martino, il papà, che Isabel, la mamma, pregavano con tutti i figli e benché pensate avessero anche loro poco per vivere, non si risparmavano nell'aiutare, almeno per quello che potevano, i tanti poveri che cercavano un po' di elemosina, soprattutto un po' di cibo allora per sopravvivere. E proprio a causa di questa povertà, nei secoli passati, almeno nelle famiglie meno abbienti, i bambini imparavano presto ad aiutare o in piccole faccende domestiche o addirittura nel lavoro dei campi. Così già a 7 anni si era impegnati in qualche attività per dare una mano alla famiglia. Anche papà Bailon ritenne opportuno affidare il piccolo gregge, erano poche pecore, che la famiglia possedeva a Pasquale. Pasquale fu molto contento comunque di contribuire ad aiutare i suoi cari, sfruttando quel lavoro che gli permetteva di restare solo con le pecorelle, per recitare sì le sue orazioni, ma soprattutto il Santo Rosario che amava moltissimo e che aveva appresso a casa. Essendo ancora piccolo, non si allontanava molto dal paese, anche perché era inesperto, anche pericoloso. Ma c'era anche un altro motivo. Prediligeva i prati da dove poteva scorgere il santuario di Nostra Signora della Sierra. Qui era presente l'ostia che lui amava profondamente, l'ostia santa nel tabernacolo. Proprio pensate, la vicinanza a questo santuario, ma soprattutto la preghiera, lo rassicuravano della presenza e della protezione di Gesù e della Madonna quando li invocava, oppure quando riposava, specialmente durante la notte, avvolte nel suo piccolo mantello. Era di notte, era un bambino di 7 anni, quindi possiamo immaginare anche insomma il timore, la paura, ma proprio questo, la preghiera era quello che lo aiutava a non avere paura, a confidare in Gesù e in quella che era la madre sua per eccellenza, la Madonna. E qui anzi, per sentire, possiamo dire, anche materialmente la presenza del Signore, lui stesso, forse piccolino, aveva scolpito con le sue mani sul bastone da guardiano che aveva anche per allontanare, a volte c'erano anche dei lupi oppure altri animali, lo usava quindi per proteggere le pecore, aveva scolpito sul suo bastone da guardiano l'immagine della Madonna sormontata da un'ostia raggiante, quindi dall'Eucaristia, per avere, diceva, sempre sotto lo sguardo i suoi amori. E qui, pregando in ginocchio davanti a quelle immagini, si sentiva il cuore inondato di pace. Come gli avevano insegnato i genitori, quando badava le pecore, però, oltre a pregare, era anche attento perché il gregge non danneggiasse le coltivazioni vicine, che costavano allora tanto sudore e sacrifici ai contadini ed erano per loro gli unici sostentamenti. E proprio per questa, pur essendo piccolo, per questa sua specchiata onestà, fu presto un esempio anche per altri giovani pastori che guardavano a questo ragazzino, ma ancora bambino, tra lo sconcertato e il sorpreso. Infatti faceva attenzione perché il gregge non andasse fuori dal prato e andasse a brucare magari le coltivazioni che i contadini avevano fatto. Ma aveva nel cuore anche un grande desiderio di fare, di apprendere, e proprio uno dei suoi cruci era il non saper leggere né scrivere, come d'altro canto la maggior parte della gente di allora. E qui, pur volendo, i genitori non si sarebbero potuti permettere un maestro per dargli lezioni. Allora cosa fece? Escogitò lui stesso il modo per imparare a leggere. Aveva trovato proprio nel suo pellegrinare tra i monti un libricino con il titolo Piccolo ufficio della Beata Vergine Maria. Allora cosa faceva? Fermava, quando era possibile, qualche viandante che sapeva leggere per chiedere il significato delle lettere. Così pian piano iniziò a impararle e poi a leggere le parole. Anche se non leggeva speditamente, era però contentissimo di poter pregare con questo suo libricino, un po' come diceva lui, come facevano i sacerdoti. Ma non si fermò qui, lui voleva imparare anche a scrivere, e lo fece, pensate, copiando qualche lettera che gli capitava tra le mani, e qui con un pezzo di canna appuntita e intinta in un impasto di puligine acqua, scriveva. Così un po' per volta imparò. E questo, cari amici, sarà prezioso anche per noi, perché ci farà sapere cosa San Pasquale Bailon pensava, per esempio, del Santo Rosario, di cui era devotissimo, e scriveva: «Tutta la corte sovrana prega in cielo per quelli che con devozione recitano il Rosario in terra». Dopo qualche anno, fattosi grandicello, il nostro santo andò a servizio di un proprietario terriero che aveva molti greggi e dava lavoro a molti pastori. Era un ragazzo ormai, e con la sua serenità, anche la sua dolcezza, conquistò presto l'amicizia di molti colleghi, suoi coetanei, ma anche dei più adulti, ai quali si univa durante la transumanza dei monti fino alle valli dell'Aragona. I suoi compagni però si accorsero presto che aveva uno strano modo di scegliere i pascoli. Infatti non prediligeva mai quelli ricchi di erba, e ne spiegò il motivo a quello che diventò poi il suo carissimo amico Giovanni Aparicio. Giovanni testimonierà dopo la morte di San Pasquale. Dice: egli, Pasquale, mentre le sue pecore pascolavano, mosso dallo spirito di preghiera che aveva praticato in paese, cercava angoli da cui potesse vedere una chiesa in cui era conservata la Santissima Eucaristia per adorarla pur da lontano. Parlavamo prima della sua profonda onestà verso gli altri. Pensate che durante questi periodi di pascolo, nel caso le sue greggi, senza volerlo, recavano appunto danno ai campi degli altri, lui risarciva i contadini o aiutandoli nel lavoro o addirittura pagandoli con qualche denaro del proprio misero salario. E i compagni che gli facevano osservare che in questo modo non solo non guadagnava, ma che ci rimetteva, lui rispondeva così: è meglio fare i conti e pagare i debiti qui in terra che aspettare di regolarli nell'eternità. E aggiungeva: le piccole colpe, ripetute spesso, e noi diciamo senza pentimento e non confessate, preparano a commettere peccati gravi che conducono all'inferno. Insomma, Tutti questi piccoli impegni irrobustivano sempre più la sua tempra, ma soprattutto la sua fede, che in quell'ambiente non aveva né l'aiuto né l'esempio dei genitori. I pastori, infatti, giovani o adulti che fossero, non avevano la sua profonda pietà e tantomeno la delicatezza d'animo che egli manifestava invece verso chiunque. Questi giovani, anche a causa delle monotone giornate che dovevano trascorrere, immaginiamo, con le greggi, poco istruite nelle verità della fede e lontani da ogni forma di preghiera, erano soliti pronunciare con facilità imprecazioni e bestemmie, e ritrovandosi poi insieme la sera si abbandonavano a discorsi scurrili e inopportuni. Pasquale era profondamente dispiaciuto da questo, ma non si arrendeva all'evidenza. Allora, con la sua dolcezza, con la sua carità, vinceva ogni cattiveria, oppure la loro resistenza a far del bene. E con l'andare del tempo, i compagni, questi compagni di lavoro, diciamo, conquistati dal suo fare, non solo iniziarono a rispettarlo, ma anche a volergli bene, accettando di buon grado i suoi consigli. Lui non lo sapeva, ma era, cari amici, il suo primo apostolato, che pian piano portò molti di quei giovani a cambiare vita e a pregare con lui in quelle lunghe giornate. Aveva così conquistato i cuori dei suoi amici, che preparò per ciascuno di loro delle cordicelle con tanti nodi, quanti ne servivano per contare le avemerie del rosario, che adesso pregavano insieme. Pensate, che bel traguardo. Ma l'animo del nostro santo, che aveva adesso 14 anni, era infiammato dal desiderio profondo di essere proprio totalmente di Gesù, di consacrarsi a lui, entrando nell'ordine francescano. Perché nell'ordine francescano? C'era stato un fatto straordinario che San Pasquale rivelò sempre all'amico Giovanni, chiedendogli però di mantenere il segreto. Infatti questa cosa si seppe dopo. Un giorno gli raccontò, mentre stava pregando vicino ad un eremo, e il gregge stava placidamente pascolando, improvvisamente si trovarono accanto a lui un frate e una monaca vestiti di un abito grigio cinto da una corda. Stranamente lui disse a Giovanni, lo avevano chiamato per nome, come se già lo conoscessero, e gli dissero, Pasquale, la vita consacrata è molto gradita a Dio. Noi veniamo proprio in nome suo, dal cielo, per invitarti a lasciare il mondo ed entrare in convento. Poi stranamente scomparvero. Il nostro santo riteneva che i due santi fossero Francesco e Chiara. E qui, dopo qualche anno da questo fatto, ritenuto ormai maturo il tempo per iniziare questa nuova vita, no? Al servizio del Signore, di Gesù e del prossimo, ne parlò con i genitori e con loro permesso andò in convento. Ma ci fu un problema, infatti in una cittadina vicino Valencia, a Monforte del Cid, c'era un convento dedicato a Santa Maria di Loreto, i cui frati vivevano in modo rigoroso la regola di San Francesco. Qui seguivano l'insegnamento di Fra Pietro d'Alcantara, ritenuto un santo come in effetti poi sarà, sia dai suoi discepoli ma anche dal popolo. Pasquale, con il suo entusiasmo da giovane, bussò alla porta dei frati, quindi con grande desiderio di far bene, era felicissimo quel giorno. Ma il padre guardiano, quando gli aprì, rimase perplesso. Questo anche per il suo modo di camminare, un po' goffo ci viene detto, e per il suo vestire un po' strano, era povero. Insomma, fu guardato con sospetto dal padre guardiano, che non era convinto. Allora gli disse che non lo riteneva adatto ad una vita così penitente. Per giustificare questo diniego, gli disse, la nostra è una vita rigorosa, scandita dalla preghiera e dalla penitenza. Tu sei abituato a vivere all'aperto, senza orari, in piena libertà. Non ce la farai a sopportare il ritmo di una vita racchiusa dentro le mura di un convento. Pensaci due volte, torna a casa e ripensaci. possiamo immaginare la delusione del nostro San Pasquale Bailon. Era andato con tanto entusiasmo, sicuro di poter iniziare questa nuova vita, invece aveva avuto questa prova che insomma lo aveva veramente addolorato. Ma non si scompose davanti al rifiuto del padre guardiano e si abbandonò veramente alla volontà di Gesù. Aveva nel cuore ancora forte quell'invito che tempo prima gli avevano rivolto San Francesco e Santa Chiara, e disse così: quando Gesù vuole una cosa, fa di tutto perché si realizzi. Cosa fece? Accettò non di tornare indietro, ma accettò di mettersi al servizio di un ricco proprietario di greggi proprio in quello stesso paese, chiedendogli però il permesso di non portare le pecore in pascoli lontani, ma di restare in zone vicine al convento francescano, così mentre il gregge pascolava, lui avrebbe avuto la possibilità anche di pregare. Il padrone rimase un po' stupito, no? Da questa stranissima richiesta, però vedeva che era un bravo ragazzo, un bravo pastore, quindi accolse questa sua richiesta. Succedeva poi spesso, come sapremo dalle testimonianze, che al suono delle campane che annunciava l'elevazione della Santa Ostia durante la messa, all'interno del convento, lui pascolava sempre di vicino, andava anche in estasi. Il padrone però, che lo osservava da parecchio e non capiva anche la sua logica riguardo alle greggi, un giorno gli chiese: ma perché ti intestardisci a girare intorno alla chiesa di Loreto, dove spesso c'è solo qualche foglio d'erba, mentre tutti gli altri miei pastori portano le pecore in pascoli più rigogliosi, anche se molto più lontani? Lui rispose: qui c'è la Divina Pastora, la Santa Vergine, che guarda le pecore, a cui non fa mancare l'erba buona e acqua pura, e le protegge dai lupi. Voi stesso potete vedere come il mio gregge non è meno pingue degli altri. E il padrone non poté che confermare quello che San Pasquale Bailon diceva, perché effettivamente il suo gregge era ben pasciuto, anche se l'erba era poca, e forse anche più degli altri. Ebbe allora il permesso di restare ancora in quell'area, e qui ogni giorno si univa spiritualmente alle celebrazioni della Santa Messa che i frati facevano in chiesa, e con il cuore, un cuore grande, infiammato dall'amore alla Santa Eucaristia, si univa spiritualmente a tutti quelli che erano lì, presenti nella celebrazione. Nel frattempo, Martino Garcia, quindi il padrone delle greggi, che aveva avuto modo ormai di conoscere bene San Pasquale, era un bravissimo ragazzo, ma lo stimava molto anche per la, al di là della sua onestà, proprio per l'esempio di vita che dava, lo aveva conquistato letteralmente. Martino, questa persona molto ricca, non aveva eredi, ed essendo con la moglie ormai anziani, cosa fece? Pensò di adottarlo come figlio, lasciandogli poi in eredità i tanti beni e le tanti greggi di cui disponevano. Pasquale aveva 24 anni. Sicuramente molti al suo posto avrebbero accettato l'offerta, infatti allora si faceva veramente la fame, si sarebbe sistemato per tutta la vita e non solo lui. Non fu così per lui, che ringraziando Martino gli disse: il mio solo desiderio è diventare frate francescano, consacrandomi al Signore. Il padrone delle greggi restò sconcertato. Gli fece presente che stava rinunciando ad un'eredità enorme, ma lui rispose: se anche avessi già tesori inestimabili li abbandonerei, perché voglio vivere povero e consacrarmi al Signore. Questa risposta sconcertò tutti e fece il giro di tutto il paese, e i paesani si chiedevano costernati come era possibile rifiutare una simile fortuna, gli davano del pazzo. Ma questa cosa arrivò anche a conoscenza all'orecchio dei frati, in modo particolare del padre guardiano, che in un primo momento lo aveva rifiutato. Aveva capito di che stoffa era fatto questo ragazzo, e così lo accolse a braccia aperte. E il 2 febbraio 1564, festa della presentazione di Gesù al Tempio, San Pasquale Bailon fu ammesso come novizio tra i frati minori scalzi, che dopo saranno denominati Alcantarini, proprio da San Pietro di Alcantara, che aveva iniziato questo gruppo riformato. Ricevette così quel giorno, possiamo immaginare la gioia che aveva nel cuore, la felicità inesprimibile, ricevette così l'abito a forma di croce, staretto da una corda bianca, completato dal cappuccio che proprio nella grande povertà, serviva per ripararsi dalla pioggia, dal sole e dal freddo. Ma lui non si accontentò di indossare l'abito religioso. San Pasquale Bailon si impegnò a seguire fedelmente le opere di San Francesco, che ormai amava moltissimo, e della regola francescana che dice: la regola è la vita dei frati minori ed è questa: osservare il Santo Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza cosa propria, in castità. E lui, terminato l'anno di prova del noviziato, l'anno dopo, era il 2 febbraio 1565, emise la professione religiosa nel convento di Orito, dove rimase fino al 73, dedicandosi alle mansioni più umili. Lo incaricavano infatti di fare il portinaio e lui era pronto ad ogni suono di campana per accogliere con grandi carità chi bussava. Lo inviavano la questua e lui con umiltà diceva sì, andava a chiedere l'elemosina, ricevendola con espressioni di grande gratitudine. Doveva fare il sagrestano e per lui era una grande gioia occuparsi della casa del Signore. Oppure doveva essere in cucina, o fare pulizia nel convento, oppure lavorare nell'orto, ed eccolo in questi luoghi, cari amici, con tutto il suo fervore, per essere utile ai confratelli. Tutto ciò in ogni convento dove i superiori lo inviavano, sempre pronto a lasciare un posto se poteva essere utile a un confratello. Sapeva, ed era quello che gli stava più a cuore, che ovunque sarebbe andato avrebbe trovato Gesù nel tabernacolo e avrebbe servito con letizia e fraternamente tutti. Durante la cerca, poi, quindi durante la questua, quando arrivava in un villaggio, la sua prima visita era per Gesù nel tabernacolo. Quando tornava poi in convento, dispiaciuto che a causa della questua aveva dedicato poco tempo a Gesù, benché possiamo immaginarlo, perché si faceva chilometri, fosse spossato dalla fatica, passava buona parte della notte in adorazione dell'Eucaristia, proprio si abbandonava nelle braccia del Signore, possiamo proprio dirlo, per essere consolato, ricordandosi ancora di quando era bambino, pregava e si sentiva al sicuro tra le braccia del Signore. E così fu, dal 1573 al 1589, quindi per 16 anni, San Pasquale Bailon trascorse la sua vita tra i vari conventi in Spagna. Ligio alla regola non si attaccava neanche alla più piccola cosa. Pensate che quando aveva necessità di lavare l'unica tonaca incredibilmente rattoppata di cui disponeva, tanto che i frati dicevano che poteva stare in piedi senza colui che la indossava in attesa che si asciugasse, Fra Pasquale se ne stava rinchiuso nella propria cella lodando il Signore. Andava sempre scalzo, sull'esempio di Francesco e di Fra Pietro di Alcantara, e in più occasioni viveva di penitenza. E qui proprio aveva conquistato anche i superiori, no? E i superiori avevano di lui grande stima, a tal punto che gli chiesero di studiare per diventare sacerdote, ma come San Francesco non se ne sentì degno e preferì restare un semplice fratello laico per santificarsi proprio nell'adempimento degli uffici più umili. E dal giorno del suo ingresso in convento praticò la regola alla lettera, dividendo il suo tempo tra la preghiera, una preghiera ardente, aperta, e il lavoro, e il santo lavoro. Si mostrò tanto assetato di penitenze, e queste penitenze le donava tutte al cuore divino di Gesù, al cuore immacolato di Maria, per la salvezza di tante anime. E gli era difficile a volte restare nei limiti dell'umana prudenza, parliamo delle penitenze. Non si nutriva che di legumi e di pane, portava il cilicio, dormiva 3 ore per notte coricato per terra, oppure appoggiato al muro della cella, e passava il resto del tempo in preghiera. Di giorno poi non faceva la siesta, tanto cara agli spagnoli, ma lavorava nell'orto sotto il sole cocente, a capo scoperto. E questo lo faceva con un trasporto incredibile verso Gesù. Lo faceva per amore, per puro amore, perché sapeva che questa offerta era gradita al Signore. Se i superiori però lo richiamavano alla moderazione, egli con pronta obbedienza si assoggettava immediatamente alla loro volontà. Il padre guardiano amava dire che non aveva conosciuto nessuno che fosse stato allo stesso tempo più duro verso se stesso, riguardo alle penitenze, e più dolce verso gli altri. Ed era vero, cari amici, il nostro santo amava tutti, teneramente, e non si sentì mai che avesse parlato male di qualcuno o essersi lamentato dei vari trasferimenti nei conventi ai quali ogni tanto doveva sottoporsi. Dicevamo, cari amici, che non si lamentava mai dei trasferimenti nei vari conventi, perché così non si attaccava a nessuna persona anche, no? C'era naturalmente un'amicizia con i confratelli, oppure al luogo, no? Anzi, in questi cambiamenti trovava un'eccellente occasione per considerarsi, dicevo, uno straniero sulla terra. Ma ovunque si recava aveva sempre il suo aspetto dolce, gaio, affabile verso tutti. La gioia veramente, e qui è la grazia. La grazia proprio della sua presenza davanti all'Eucaristia, veramente il Signore lo illuminava di una luce particolare e di una gioia incredibile che gli traspariva dal volto. Lungo il giorno, pensate, si udiva canticchiare sempre qualche lode e spesso si vedeva correre a dire all'orecchio di questo o quel confratello, gli diceva: tutto ciò che viene da Dio è buono, sia lodato Gesù Cristo, oppure il mio amore è crocifisso, o altre espressioni di questo tipo. E con la sua semplicità aiutava chi soffriva, per esempio, di scrupoli, che lui chiamava le pulci della coscienza e quindi dannosi, facendo recuperare alla persona la serenità di spirito. E i guardiani dei conventi in cui si trovava gli affidavano volentieri la sorveglianza della comunità, quando, per cause di forza maggiore, se ne dovevano allontanare. Addirittura, pensate, i maestri dei novizi lo incaricavano di tenere delle conferenze spirituali, tant'era straordinaria la conoscenza che aveva dei misteri della fede. Abbiamo visto che era pochissimo istruito, sapeva appena leggere poco, scrivere poco, eppure compose piano piano diversi trattatelli spirituali. Pensate, erano così belli che in quegli anni proprio fecero esclamare un altro santo, San Giovanni de Ribera. San Giovanni de Ribera era allora arcivescovo di Valencia, è stato anche fondatore dell'ordine delle monache agostiniane scalze. Disse questo santo: a che servono i nostri così faticosi studi, giacché i semplici diventano con l'esercizio dell'umiltà e dell'orazione assai più sapienti di noi, che consumiamo i nostri occhi e la nostra vita sui libri. Essi si innalzano al cielo e lo conquistano con la loro semplicità, mentre noi strisciamo sulla terra. La nostra scienza, gonfia d'orgoglio, ci offre un giusto timore di esserne banditi eternamente. Si riferiva proprio a San Pasquale Byron, che aveva praticamente stupito tutti. Qui, naturalmente, San Giovanni de Ribera non dice di non studiare, al contrario, ma di fare attenzione all'orgoglio. La nostra scienza, dice, gonfia d'orgoglio, e questo purtroppo è un pericolo molto concreto. Ma tornando al nostro San Pasquale Byron, proprio perché era fedele, attivo e discreto, nei diversi conventi in cui soggiornò, fu incaricato della portineria e poi del refettorio. E appena le occupazioni gli lasciavano un po' di tempo disponibile, si rifugiava subito in chiesa per andare ad abbracciare Gesù nella Santa Eucaristia. Era lì, si riposava insieme a lui. E alla porta del convento distribuiva sempre generosamente ai poveri tutto quello che poteva. E anzi, perché quell'elemosina giovasse oltre al corpo anche all'anima, adottò l'uso di pregare con loro, quindi con i poveri, prima e dopo ogni pasto, ogni distribuzione dei pasti. E qui lui, che era attentissimo, per non diminuire il soccorso ai mendicanti, raccomandava ai confratelli in convento di non spargere inutilmente neppure una goccia d'olio. Anzi, lui stesso, questo ovviamente era nascosto, si seppe dopo, lui stesso riservò per molti anni ad una persona molto anziana e poverissima buona parte del suo cibo quotidiano. E arriviamo così anche al giorno in cui il provinciale lo incaricò di recarsi a Parigi, dove risiedeva il ministro generale dell'ordine, padre Cristoforo de Chiffon, per comunicazioni urgenti. San Pasquale Byron accettò questa incombenza senza fare obiezioni, in grande obbedienza, pur sapendo che le città per le quali sarebbe dovuto passare erano dominate dagli Ugonotti, che erano i protestanti francesi di confessione calvinista. Partì a piedi scalzi, senza sandali, quindi partiamo dalla Spagna per poi risalire, proprio secondo il suo costume. Non fu un viaggio facile. Spesso anzi si trovò esposto al loro furore, cioè al furore degli Ugonotti, che si tramutò in colpi di pietre e di bastoni. Ne prese davvero tanti e scampò più volte la morte. Questo, cari amici, anche a causa della lotta fratricida che in quegli anni si stava combattendo tra cattolici e ugonotti. Due volte fu arrestato come spia e minacciato di morte. Solo un miracolo gli salvò la vita. Un giorno poi, durante il ritorno, fu ferito alla spalla sinistra tanto gravemente che rimase storpiato per tutta la vita. Eppure quando ritornò in Spagna, nessuno lo udì compiacersi dei pericoli che aveva corso, tant'era l'attenzione e la diligenza che usava per allontanare da sé qualsiasi lode umana. E Dio premiò l'umiltà di questo suo santo con il dono dei miracoli. Dei processi canonici risulta che molte persone furono sanate da lui con un semplice segno di croce e che a tante altre predisse con esattezza quello che sarebbe loro accaduto se non ci fosse stata la conversione. Proprio però questa via della santità, percorsa con amore unico e meraviglioso nei confronti di Gesù e della Madonna, rendevano i demoni furenti contro di lui. Ed era come aveva, diciamo, la grazia della visione della Madonna e di Gesù e dei santi, aveva purtroppo anche quella dei demoni, che per spaventarlo molte volte gli apparivano sotto forma di bestie feroci. E per ingannarlo, questo succede spesso ai santi, in molte occasioni assumevano l'aspetto o della Madonna o di santi. Non riuscendo però a piegarlo, molto frequentemente lo percuotevano con tale rabbia da lasciarlo coperto di lividure. Ci ricorda in questo senso molto un santo dei nostri tempi, molto amato, proprio Padre Pio, quante ne ha prese dal demonio. Ma lui, come Padre Pio, non temeva, aveva il cuore così infiammato che accettava qualsiasi cosa, sapeva la grandezza di un'anima salvata, aveva la coscienza di cosa voleva dire la salvezza di un'anima. E continuava così a trarre forza e vigore dalle tante notti che trascorreva proprio davanti all'altare, immobile, spesso con le braccia alzate verso l'Eucaristia. E se qualche confratello gli faceva osservare a volte il sonno prevaleva, lui rispandeva: anche se dorme, anche se dormo, lui mi vede, Gesù mi vede. E proprio dall'Eucaristia attingeva non solo una profonda pace, ma anche tanta carità, una carità squisita da riversare verso i confratelli, o verso i tanti che bussavano anche alla porta del convento, oppure che incontrava fuori durante la questua. Dobbiamo dire poi che verso i confratelli aveva quella venerazione che egli nutriva proprio per la vita religiosa. Perciò non vedeva i loro difetti, non teneva conto dei momenti di durezza o di sgarbo che alcuni usavano magari verso di lui. Al contrario, lui mostrava gentilezza verso l'altro, anzi lo giustificava dicendo che quei momenti erano causati dalla stanchezza. Per lui ogni confratello, diceva, era sempre un dono del Signore. Anzi, quando qualcuno di essi si ammalava, trovava in San Pasquale un premuroso e gentile custode, pronto a consolare, ad accorrere per aiutare, per ogni genere di servizio. Ma anche con i tanti che bussavano alla porta del convento, tantissimi poveri, era disponibile, sempre cortese, ascoltava con pazienza gli sfoghi di tanti cuori addolorati, anche disperati, cercando per quanto gli era possibile di andare incontro alle richieste che facevano per cercare di alleviarne almeno in parte le sofferenze. Una dolcezza particolare la usava con i bimbi, quando li incontrava nel questuario di porta in porta. E a loro volta i bambini erano gioiosi nel vederlo, perché si sentivano amati da quell'umile frate che si faceva piccolo tra i piccoli. Molti accorrevano da lui, quindi, per ascoltare i suoi racconti, per imparare anche dei canti religiosi. Dicevamo che un'amabile delicatezza la riservava ai poveri e lui era convinto che in essi si identificava ancora in modo più forte Gesù. E poiché i poveri accorrevano più numerosi e più frequentemente quando Fra Pasquale svolgeva il servizio di portinaio, qualche confratello aveva espresso il timore che egli potesse far mancare il necessario alla mensa del convento. Capitò invece esattamente il contrario. Infatti più lui era generoso con gli ultimi, più la mensa fraterna era abbondante. E nei confronti dei malati, in particolare lo dicevamo prima, era come un balsamo, comprendeva fino in fondo la sofferenza. Ed era un balsamo lui per i fratelli, sia per l'anima, anche per il corpo. La sua preghiera, infatti, spesso, abbiamo visto, otteneva guarigioni istantanee e insperate. Quando poi l'ammalato era un bambino, diventava un angelo inviato da Dio. Questo per la tenerezza con cui gli parlava, la dolcezza delle parole, e molto spesso a questo seguiva anche la guarigione del piccolo. Ci sono a questo proposito delle testimonianze scritte riguardo alla guarigione di Elisabetta Pasquale, una bambina di 10 anni, ricoperta di piaghe inguaribili, della piccola Paola Manzola che stava soffocando per un ascesso grave alla gola, di un bambino di 2 anni che è precipitato violentemente dalle scale e era in fin di vita. La cosa singolare, pensate, che la mamma di questo bimbo, questa signora si chiamava Elisabetta Palares, era una donna che aveva, in modo molto chiaro, sempre disprezzato il nostro santo. Egli ha salvato la vita del suo figlioletto. E qui ci dà, ecco, questo è un po' il quadro di questa bellissima vita. E gli ultimi anni, della sua vita terrena, San Pasquale Bailon li passò nel convento di Villa Real, presso Valenza. E anche qui successe una cosa particolare. Un giorno, mentre assisteva al sacrificio della Santa Messa, Gesù gli rivelò il giorno della morte. Invece di preoccuparsi, emise grida di gioia uscendo dalla chiesa e nel ritornare poi alla cella, queste sono tutte testimonianze scritte, nel ritornare alla cella ne diede notizia alle persone che conosceva gettando loro le braccia al collo. Sapeva bene cosa voleva dire andare in paradiso e cos'era il paradiso. Qualche giorno dopo, infatti, cadde gravemente ammalato. Il padre guardiano era profondamente addolorato da questa cosa, perché aveva capito che sapeva chi era questo santo, quindi lo avrebbe perso, e lo fece comunque trasportare immediatamente nell'infermeria, dove fecero il possibile, ma ricevette qui i sacramenti con grande devozione e morì. Aveva 52 anni, era il 17 maggio 1592, morì dopo aver invocato per 3 volte il nome santo di Gesù. E proprio pensate, per i grandi miracoli che avvennero sulla sua tomba, sulla tomba di questo umile frate alcantarino, Papa Paolo V lo beatificò nel 1618 e Papa Alessandro VIII lo canonizzò il 16 ottobre 1690. Ma non poteva passare inosservato questo amore pieno di passione, di fuoco santo verso la Santa Eucaristia. Così Papa Leone XIII, nel 1897, lo proclamò patrono dei congressi eucaristici.